Un esperimento che è iniziato all'inizio degli anni 70 o circa la metà degli anni 70, un esperimento sconvolgente se noi ci pensiamo. Di cosa si trattava? Quindi il primo, appunto, il verbo interessante che troviamo è to be aware of, quindi I was aware of. Evidentemente è una cosa che forse di qui da noi non si era parlato tanto, ma nel mondo anglosassone sì, quindi to be aware of something, essere a conoscenza di qualche cosa, tutto sommato molto simile all'espressione italiana, e quindi di questi various social experiments that took place. Took place invece è un phrasal verb che, come sappiamo, vuol dire svolgersi. Noi in italiano abbiamo una parola sola, un miracolo. Là dove gli inglesi questa volta ne hanno due, non ne abbiamo una sola. With chimpanzee, cioè chimpanzee come si dice più o meno in italiano, and higher primates, quindi immagino i primati maggiori. Sì, quelli che noi chiamiamo i grandi primati, quindi appunto tutto quello che sta sopra lo scimpanzé fino agli stupendi gorilla che abbiamo visto anche nel film Gorillas in the Mist, Gorilla nella nebbia. Però quei gorilla che abbiamo visto, quelli di Ian Fossey, erano liberi, invece a Nim purtroppo era capitata tutt'altra sorte. Sì, questo appunto, per questo social experiment, perché questo Nim lived with humans all of his life, quindi to live with somebody, esattamente come in italiano, vivere con qualcuno, e questa storia in realtà era stata raccontata in un libro, e al nostro James Marsh, che secondo la Marta è bellissimo, io purtroppo non l'ho incontrato. Confesso, un bellissimo ragazzo. Niente a uno scimpanzì, e il suo producer asked him to read the book. Quindi evidentemente, essendo parlando appunto di un uomo specializzato in documentari, il producer di James lo aveva identificato questa storia come interessante per un uomo che si dedica ai documentari. Effettivamente lui è stato rimasto gripped and fascinated, quindi è stato avvinto, possiamo dire affascinato. Sì, grip è proprio anche il come noi afferriamo qualcosa, quindi to be gripped vuol dire appunto restare presi, diciamo in gergo noi, da questa, e affascinati, perciò il report di tutte le cose che questo scimpanzé ha fatto, everything he did, was a very interesting challenge to tell, perché naturalmente la sfida è spostare dal libro a un documentario. E per concludere lui spiega qual era in effetti l'esperimento su Nim. Perché il povero Nim, l'idea era di teach the chimpanzee to talk, quindi insegnare, noi diciamo insegnare a, gli americani, gli inglesi naturalmente diciamo usano l'accusativo, quindi insegnare lo scimpanzé a parlare, teach the chimpanzee to talk. C'è un piccolo problema però, che gli scimpanzé can't use vocal cords, non hanno le corde vocali, o comunque non le possono usare nel modo in cui le usiamo noi, è un problema evoluzionistico naturalmente, e quindi cosa resta? Il sign language, il linguaggio dei segni. E chiudiamo con un regista canadese, ha vinto il premio del pubblico al Courmayeur Noir in Festival con Don't Be Afraid of the Dark, il suo esordio alla regia dopo anni in cui ha fatto il disegnatore di fumetti e graphic novel, Troy Nixie. It began really with my desire to find out if I was supposed to stay in comics or move to movies like I felt, and the only way for me to do that was to make a short film to prove to myself and to prove to others that I could do it. I had started corresponding with Guillermo and sending him images, and he was writing back and was very encouraging. And when he finally saw the film, when it was completed, it took 5 years to finish. There was a lot of starting and stopping. It was expensive. I was paying for it myself. So he saw it and thought that I would be great for Don't Be Afraid of the Dark, a script that he had co-written with Matthew Robbins, that he was originally going to direct for himself. Ecco qui come nasce il progetto di questo film che si intitola Don't Be Afraid of the Dark. Intanto sentiamo citare questo Guillermo, che è Guillermo del Toro, che gli ha appunto regalato lo script. Ma Troy Nixie ci spiega bene com'è andata. Sì, è iniziato proprio con un desiderio, quindi to begin with my desire, quindi come in italiano iniziare con, iniziò con il mio desiderio to find out. Find out è un phrasal verb, to find sappiamo che vuol dire trovare, to find out vuol dire scoprire. Quindi lui voleva scoprire se... E qui c'è un'espressione che non si può tradurre letteralmente, però cercheremo di tradurla ovviamente con una per darne il giusto significato. Quindi to find out if I was supposed to stay in comics, che letteralmente era se era supponibile che io restassi nell'ambito dei fumetti, quindi in italiano diremmo per capire se era giusto, se era la cosa che era destino che fosse, che io restassi appunto un autore di fumetti e di graphic novels o facessi qualcos'altro. Move to movies. Ah già, giusto, move to movies direttamente, quindi, oppure se mi spostassi ai film, che era like I felt, che era quello che io sentivo, però aveva l'umiltà necessaria per capire che a volte uno ha un sogno, però forse poi non ha il talento necessario per realizzarlo, e quindi lui voleva proprio trovare, find out, e naturalmente questo si fa, se si è onesti, facendo vedere il proprio lavoro agli altri, più che beandosi delle proprie aspirazioni. E quindi nascono due cose: una corrispondenza con Guillermo del Toro, e appunto lui vuole capire davvero se può fare regista, e comincia a fare un corto quasi infinito. Quindi started corresponding with Guillermo, che started writing back, che quindi gli rispondeva to write back, letteralmente scrivere indietro, perciò rispondere. E poi appunto lui, probabilmente perché continuava a fare fumetti, quindi un po' nel tempo libero, it took 5 years to finish, quindi ci sono voluti, diremmo in italiano, ci sono voluti 5 anni per finirlo. E poi perché? Perché c'è stato un lot of starting and stopping, quindi ci sono stati molti, in italiano dovremmo dire, non naturalmente c'è stato molto iniziare e fermarsi, ma ci sono stati inizi e interruzioni, probabilmente o perché mancava l'ispirazione o perché mancavano i soldi, perché era tutto autofinanziato, come lui stesso dice, it was my expenses. E poi a un certo punto riesce, dopo 5 anni, a finire questo corto, a farlo vedere a Guillermo del Toro, il quale dice: ho io la storia giusta per te. E quindi addirittura lui lo racconta dicendo: he, Guillermo, thought I would be great for Don't Be Afraid of the Dark, che io sarei stato great, quindi perfetto, potremmo dire in italiano, per questo progetto, che poi appunto è quello che ha presentato Courmayeur, che Marta ha avuto la fortuna di vedere. Don't Be Afraid of the Dark, non avere paura dell'oscurità. Ed è tutto per l'ultima delle nostre puntate festive dedicate agli incontri dell'anno di English 24. Vi ricordiamo l'appuntamento con il nostro English 24 in edicola. Ci risentiamo sabato prossimo con la prima puntata della nuova stagione della nostra trasmissione. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di buona serata e di buon anno.